fuego! ¡Sí! ¡Posso volare! ¡I believe I can fly! Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E allora, una buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa, come ogni lunedì, è Radio Possum. Dalle 22 alle 23, trasmissione antispecista. E quelle che sentite sotto sono le note degli Antimaniacs con Chili con Tofu. Questa sera una puntata abbastanza intensa, siamo tantissimi, è venuto pure il maggiordomo. In diretta da Marsiglia proprio. Vuoi dire qualcosa? Non ti sentono se parli laggiù. Non parla, dai, va. Dopo parlerò anch'io. Va bene. C'è qualcuno che ha spento la radio dopo questa affermazione. Va bene, insomma, la prima cosa di cui andremo a parlare oggi sarà, insomma, qualche parola sugli europei. Dopodiché parleremo con le compagne e i compagni di Las Vegas House, dalle colline bolognesi. E poi un approfondimento su quella che è stata la manifestazione del 16 ottobre, appuntamenti vari ed eventuali. 16 giugno. 16 giugno, giusto. Sì, abbiamo parlato poche puntate fa della strage dei cani che c'è stata in Ucraina, sentendo un attivista sul campo, Andrea Cisternino. Adesso gli europei sono partiti, questa sera gioca anche l'Italia con grande attenzione della maggior parte degli italiani. E volevamo spendere due parole su questo argomento. Avevamo scritto infatti un comunicato che ci piacerebbe leggere. Siamo veramente disposti a dimenticare tutto in nome del calcio? Come ormai tutti sanno, e come facciamo a non saperlo? Siamo italiani, cosa conta più del calcio? Il 9 giugno sono iniziati gli europei di calcio, ospitati quest'anno da Ucraina e Polonia. Ovviamente, con un giro così imponente di soldi, non sono mancati gli orrori concessi in nome del calcio. I paesi ospitanti, innanzitutto per mostrare all'Europa il loro grado di sviluppo all'occidentale, hanno ben pensato di allontanare qualsiasi elemento di disturbo, pulizia dei centri urbani più importanti, quali Kiev, dai senza tetto, e sterminare tutti i cani e gatti randaggi, con metodi il più veloce possibile, avvelenati, ammazzati a bastonate, bruciati anche vivi nei forni crematori mobili. Ovviamente premiando chi esegue in proprio disposizione statale, 10 euro in cambio della vita di ogni animale ucciso. Gli oppositori, l'oppositrice dall'esterminio, sono stati allontanati anche violentemente per far posto allo spettacolo, al calcio, al razzismo e al fascismo. Dimentichiamo la conformazione fascista e xenofoba della tifoseria ultras ucraina? Ma sì, dimentichiamo tutto e godiamoci gli europei. Tifiamo i nostri ben amati calciatori, oltretutto dichiaratamente corrotti, e laviamoci la coscienza pensando che ogni tanto dobbiamo divertirci anche noi. Nel frattempo qualcuna continua a morire. Ma in fondo sono dei matti fomentati e anche animalisti squilibrati quelli che protestano. Come quel giocatore della nazionale palestinese in sciopero della fame nelle carceri israeliane da 86 giorni, adesso un po' di più di 86 giorni, per la presenza di Israele agli europei di calcio. La squadra non si è qualificata, ma Israele rimane nella UEFA, la Federazione Calcistica Europea. Dove sono tutti coloro che hanno manifestato contro Israele, le ordinanze anti-bivacco, le discriminazioni sociali contro gli indesiderabili, quando si trasmettono questi europei della vergogna? È inaccettabile che luoghi contro cultura e contro informazioni, luoghi di lotta e riflessione politica smettano questo scempio. Bocottiamo subito Euro 2012, non diventiamo complici di questo europeo di sangue. Potete leggere questo comunicato sul blog di Radio Possum, www.radiopossum.noblogs.org. per la libertà di tutte e tutti, www.10 per 100.it. Genova non è finita. Arrancata violentamente, convirtiéndose en el más grande holocausto del planeta contra todo animal. Las imágenes que se muestran a continuación son la cruda y triste realidad que estos seres llamados animales tienen que soportar día a día por un único culpable y sin duda el peor verdugo de su especie, los seres humanos. Luchemos por un mundo mejor. Liberación animal. Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. Maltratado en la ciudad. Hey, tú, hermano animal. Hey, tú, sin derecho a protestar. Hey, tú, hermano animal. Comprado como un juguete para un niño. Con los años empezaste a ser un estorbo más. Tiraron a la calle, muy solo, te pude escuchar implorando. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Babilón. Animal. Hey, tú que no entiendes de crueldad. Hey, tú hermano animal. Aguantas el maltrato cruel, qué triste destino. Esperas algún día que tu amo pueda cambiar. Que amo es amigo si solo supo mandar. Llorando. Quiéreme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme. E allora sfumiamo gli Psicosis per entrare in diretta con una compagna che è un attivista, una tra le fondatrici della Vegans House, un posto liberato come anticipavamo all'inizio della trasmissione sulle colline bolognesi. Ciao, ci senti? Sì, sì ho un po' di problemi di linea. Ci senti poco? No. Io ti sento benissimo. Ah, d'accordo. Ok, senti, vabbè, intanto così, giusto per rompere il ghiaccio, qualche domanda preliminare, se ci vuoi raccontare un pochino come nasce Las Vegans, qual è l'idea che c'è dietro, e poi casomai entriamo più nello specifico, che cosa fate? Ci senti? Eccola, è caduta la linea, va bene, ora cerchiamo di rimetterci in collegamento. Che maldita umiliazione. Liberación animal, liberación, libéralos, libéralos, liberación, liberación animal, liberación, su voz. ¡Defiéndelos! No los maltrates, no los encierres, no los tortures, defiéndelos de la muerte. No experimentes, no los diseques, no los explotes, no nos pertenecen. No los maltrates, no a su muerte, no los maltrates, no a su muerte. No a su muerte, no a su muerte, no a su muerte. E allora, vabbè, la scaletta è un po' saltata, oggi siamo un po' sull'improvvisazione. Nel frattempo, mentre proviamo a richiamare la compagna, e volevamo fare così due note su quello che è successo il 16 giugno, che c'è stata una manifestazione a Roma organizzata da Occupy Green Hill e dal coordinamento antispecista del Lazio contro l'allevamento Green Hill e contro la vivisezione. C'erano parecchie persone, 5.000, 10.000, al di là delle cifre, comunque c'era un sacco di gente e persone anche di, come dire, di vario tipo, di varie estrazioni, un po' comunque tutti uniti in questa lotta contro la visizione. C'erano anche politici, purtroppo. Sì. E c'erano anche, poi sui politici mo ci apriamo una parentesi, diciamo, c'erano anche associazioni, bandiere di associazioni, strisce di associazioni, nonostante gli organizzatori avessero chiesto di non portare simboli di associazioni, ma evidentemente spesso la voglia di farsi pubblicità è più forte delle richieste che arrivano da parte di chi organizza le manifestazioni stesse. E questo è un po' un malcostume che si è sempre verificato in tutte le manifestazioni promosse da collettivi, da gruppi di individui, da tutte quelle realtà, chiamiamole di base, no? Che ovviamente aprono le loro iniziative a tutti quanti, a patto che tutte le persone partecipino come individualità e non come esponenti di un'associazione portando il proprio marchio, il proprio logo in piazza. Poi non che le persone giustamente vengano cacciate via, figuriamoci. Però è un discorso di sensibilità che forse molte associazioni che tendono sempre a mettere il cappello su certe iniziative non hanno. E poi vabbè, c'erano anche i politici, c'era Bonelli dei Verdi, c'era soprattutto la Brambilla, la famosa Brambilla con cui noi abbiamo avuto così due in piazza, abbiamo avuto due amabili chiacchiere, no? E perché comunque lei insomma stava lì a farsi fare le fotografie, a stringere mano, a farsi insomma campagna elettorale. Ci è dispiaciuto vedere molte persone che appunto l'hanno applaudita. Noi come diciamo persone che stavamo là, noi tutti della redazione e anche altri amici e amiche, gli abbiamo così cortesemente chiesto se se ne poteva andare. Insomma, non era il caso che stesse lì a farsi campagna elettorale sulla pelle dei cani. Sì, e poi le abbiamo anche chiesto se per lei quale fosse per lei la differenza tra i cani e i pesci, visto che poi insomma in rete si leggono varie cose sul. Comunque è molto facile difendere la vetrina di Green Hill, dove ci sono i cagnolini beagle ai quali vorrebbe bene chiunque, quando si tratta di altri animali meno quando si tratta di altri animali così meno in vista, meno belli, che sono meno per fare campagna elettorale, c'è un altro paio di maniche. Insomma, si sa che la Brambilla partecipe in aziende che commerciano in prodotti ittici, quindi le è stato chiesto quale fosse effettivamente la differenza tra i pesci e i cani. Lei naturalmente non ha detto niente, non so perché, insomma. No, lei è uscita dal corteo, insomma, tanto voglio dire, la sua vetrina l'aveva ottenuta, però vabbè, adesso al di là di questo episodio per fortuna se n'è andata, ha capito, insomma, non era il caso di strumentalizzare questa iniziativa. La manifestazione è andata comunque bene, un sacco di gente c'è stava, sì, e si è sotto un caldo assurdo pazzesco, sì, e si è voluto appunto, oltre a manifestare contro Green Hill e la vivisezione, anche mostrare solidarietà alle persone, ricordiamo che sono state fermate il 28 aprile a Montichiari con anche una raccolta firme per chiedere appunto che cadessero l'accusa su di loro, e quindi comunque era anche legato alla solidarietà per questi attivisti arrestati. Ricordiamo che ci sarà un altro corteo nazionale anche il 30 giugno, questa volta a Montichiari, organizzato dal coordinamento Fermare Green Hill, ma lo ricorderemo anche alla fine della trasmissione, nel momento che lanceremo i prossimi appuntamenti. Indietro, assaggia i miei scarponi. Fermo! Perché la sua vita dovrebbe avere meno valore della tua? Ah! selvaggio. Vedremo quanto sarà selvaggia quando avrò finito. Allora, come abbiamo detto, il 16 eravamo presenti al corteo, insomma ce lo siamo fatto, abbiamo approfittato della giornata, della presenza di molte persone sensibili all'argomento, non solo sulla lotta contro l'allevamento di Green Hill, ma in generale contro la vivisezione, per distribuire un nostro volantino. Adesso ve lo leggiamo in modo che possiamo veicolare quello che abbiamo fatto, che abbiamo distribuito in piazza. Allora, approfittiamo di questo momento di aggregazione del movimento animalista su un tema caldo come la vivisezione e l'allevamento Green Hill per presentarci e proporre alcuni spunti di riflessione. Noi, va bene, siamo un collettivo che ormai da un paio di mesi conduce una trasmissione, questo lo sapete se ascoltate Radio Onda Rossa. Veniamo tutti e tutti da un'esperienza di attivismo per la liberazione animale e della terra, nella lotta contro ogni forma di autoritarismo, contro ogni tipo di nocività. Vogliamo dare il nostro modesto contributo per saldare l'animalismo ad un solido ancoraggio antispecista. Il nemico, infatti, è uno solo. I modi di colpirlo sono tanti. Dai CIE agli allevamenti, dai lavoratori di sezione ai cantieri che ricoprono di cemento la nostra terra, dalla TAV al liberismo selvaggio, dall'istruzione della biodiversità alla caccia, alla pesca, dalla militarizzazione della nostra società al nucleare, dalla repressione del dissenso ai circhi, agli zoo. La matrice è sempre comune, è l'autoritarismo, la discriminazione, il fascismo che sottilmente pervade la nostra società, che diversifica le forme di vita indegne e indegne, in superiori e in forme inferiori. È comune anche la risposta, pratiche dal basso, azione diretta, cambiamento delle coscienze, diffusione culturale. Non certo strumentalizzazione del politico di turno che cerca di accaparrare voti abbracciando quella o quell'altra battaglia animalista ed ecologista. L'animalismo e l'ecologismo radicali, senza compromessi, e l'antispecismo che rifiuta qualsiasi forma di oppressione e sfruttamento, sia esso dell'uomo sull'animale o dell'uomo sull'uomo o ancora dell'uomo sulla madre terra, sono fenomeni in espansione e in crescita, sia qualitativamente che quantitativamente. Dal nord dell'America e dall'Europa fino alla Russia, all'America Latina e perfino all'Asia, azioni dirette, manifestazioni, dibattiti. Sentiamo infatti la necessità di raccontare queste lotte, di dare visibilità a tutti i contributi che arrivano da tutto il mondo per la liberazione animale e della terra, sempre in un'ottica che sia anti-autoritaria. La manifestazione del 16 ha avuto parecchio ritorno anche mediatico, in generale a parte la manifestazione del 16. Questo è un momento un po' chiave sulla vivisezione almeno in Italia, e perché per la prima volta forse c'è una presa di coscienza davvero collettiva, e ovviamente la lobby dei vivisettori si sta muovendo. Noi vogliamo riportare oggi quello che è stato pubblicato sul sito Notizie Radicali del Partito Radicale da parte di Maria Antonietta Farina Coscioni. Chi è Maria Antonietta Farina Coscioni? È stata presidente dei Radicali Italiani ed attualmente presidente dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, ed è stata anche eletta deputata nel 2008 come radicale nelle liste del Partito Democratico, quindi è un deputato alla Camera. E Maria Antonietta Farina Coscioni ha scritto un articolo oggi pubblicato appunto su Notizie Radicali e ripreso poi su vari siti legati a sfruttatori di animali, ne diciamo uno su tutti, federfauna.org. Già il titolo di questo articolo è assolutamente delirante, perché si chiama "Chi manifesta contro la sperimentazione animale abbia l'onestà di riconoscere che si batte per l'oscurantismo". Insomma, è la solita solfa, è la solita solito cumulo di banalità. Sostanzialmente la sperimentazione animale è una cosa assolutamente necessaria, è una cosa giusta perché è fatta per salvare gli esseri umani. I vivisettori all'interno dei loro laboratori rispettano tutte le leggi, quindi gli animali non soffrono perché comunque sono trattati bene, e perché senza sperimentazione animale la ricerca medica non andrebbe avanti, e via dicendo. La cosa un po', questa è sempre la solita solfa, insomma, che non dice nulla, non scrive nulla di nuovo rispetto alla difesa d'ufficio che si fa della vivisezione. Una cosa un po' particolare, il tocco originale che dà la Coscioni a questa perla di letteratura italiana è il fatto che alla fine scrive e paragona l'antiabortismo all'antispecismo, e quindi nello specifico le violenze degli antiabortisti alla lotta di liberazione animale. La Coscioni scrive: "Purtroppo assistiamo sempre più spesso ad atti di violenza nei confronti di strutture legali che praticano sotto il controllo di una rigida legge sperimentazione su modelli animali", sottolineo la rigida legge. "Questa violenza violenza viene giustificata con il fatto che l'animale non può difendersi, ed è la stessa giustificazione che si danno gli antiabortisti, con il risultato evidente che i medici che rispettano le leggi sono additati come criminali e chi le viola ne impedisce l'applicazione e ritiene di fare il bene di tutti. Si conoscono casi di medici abortisti perseguitati, picchiati o ammazzati, allevamenti di animali colpiti da intimidazioni a centri di ricerca. Violenza che non ha mai colpito medici antiabortisti o ricercatori su modelli di ricerca alternativi a quello animale. In poche parole, quindi, secondo la Coscioni, come dire, coloro che si battono contro la vivisezione e che partono da una prospettiva che è antispecista, quindi per ogni forma di liberazione di qualsiasi forma di vita, sia essa animale o umana, sono paragonabili per esempio all'Army of God americana o a Forza Nuova e via dicendo. L'articolo lascia veramente il tempo che trova, perché è una cosa veramente penosa, peraltro scritto anche in un italiano abbastanza imbarazzante. C'è una risposta interessante a questo articolo su un blog Femminismo a Sud, gestito da alcune compagne femministe. Li scrive una femminista antispecista in merito alla sperimentazione animale. E, insomma, vi consigliamo di leggerla, non ve lo leggiamo perché è lunghissimo. Soltanto un brevissimo estratto che risponde alla parte finale dell'articolo della Coscioni. Questa persona scrive: gli atti di danneggiamento nei confronti di strutture che mercificano la vita degli altri animali, e chiamiamolo per quello che sono, danneggiamento, non violenza, sono nulla in confronto alla vera violenza perpetrata sui corpi, sulle menti, sulle vite di troppi animali non umani e di tanti animali umani. Noi insomma riteniamo che il vero oscurantismo, il vero fascismo, la vera violenza sia di tutti coloro che sono guidati dalle lobby farmaceutiche e dalle lobby industriali e che praticano la vivisezione come forma di sfruttamento animale congeniale finalizzata unicamente al loro tornaconto economico. Ci sono, noi qui su Radio Possum ne abbiamo parlato, ci sono moltissime obiezioni alla vivisezione sia dal punto di vista scientifico, cioè ci sono moltissimi ricercatori che sostengono che la sperimentazione animale non serve assolutamente a nulla, o meglio, non è neanche inutile, è disutile, cioè dannosa anche per gli stessi esseri umani perché è fuorviante. Ci sono moltissime obiezioni anche politiche che si possono fare alla sperimentazione animale, e noi l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta in una precedente puntata. Insomma, è interessante però questo articolo della Coscioni, perché dimostra che forse siamo veramente a un momento chiave sulla sperimentazione animale. Mai c'è stato così tanto seguito sulla vicenda, mai c'è stata così tanta partecipazione popolare sulla questione della sperimentazione animale, trascinata dall'allevamento Green Hill, dalla lotta che si fa contro l'allevamento Green Hill, ma estesa chiaramente a tutta la sperimentazione animale. Siamo appunto in un momento chiave, e articoli e attacchi così squallidi al movimento antivisezionista forse sono, da un certo punto di vista, una buona notizia, perché forse in questo momento forse le lobby della sperimentazione animale si stanno veramente cominciando a preoccupare. E va bene, adesso mandiamo un altro brano, No Relax di Gabbie di Sangue, e cerchiamo di metterci in contatto con la Svens. No! Allora, sembra che siamo riusciti a metterci in collegamento con Las Vegas. Ci senti questa volta? Sì, stavolta sì, abbiamo avuto un problema. Ok. Senti, allora, no, niente, eravamo rimasti alla domanda zero, ossia, insomma, che cos'è Las Vegas, come è nato, come è nata l'idea e, insomma, che cosa porta avanti? D'accordo, Las Vegas è uno spazio che esiste ormai da 7-8 anni, è uno spazio antispecista e anarchico situato a 30 km da Bologna, dove c'è un terreno di 3 ettari e mezzo con pascolo e boschetto, dove convivono diverse specie di animali, tutti comunque salvati da un destino di gabbia, di morte, eccetera. L'idea è nata appunto dall'attivismo verso questi animali. E niente, accidenti, mi sa che Non lo so, qualcuno rema contro, forse è il maggiordomo che porta sfiga. Ci senti? No, niente, mi sa che è cascata la linea di nuovo. Proviamo a rimetterci in contatto con Las Vegas. Insomma, vabbè, continuate a sentirvi la canzone di Le gabbie di sangue e poi ripartiamo. Ah no, volevi dire una cosa. Sì, ma una cosa al volo, tanto abbiamo un po' di tempo per ingannare l'attesa. Sul sito americano, si chiama animalliberationfrontline.com, ed è un sito di Peter Young. Peter Young è un vecchio, non di età, però insomma, da diversi anni è un attivista statunitense che si batte per la liberazione animale. E è apparso su questo sito, gestito da lui, una sorta di avviso, e cioè sul fatto, ve la faccio breve, che su Twitter, famoso questo per la serie guardatevi dei social network, sempre su Twitter, insomma, è stato scoperto che il gruppo Americans for Medical Progress, che è una lobby per la vivisezione, cioè una serie di, diciamo, di un gruppo di pressione che dietro la solita storia della ricerca scientifica e via dicendo difende l'utilizzo degli animali nei laboratori, la vivisezione e il massacro degli animali. Insomma, su Twitter questa Americans for Medical Progress ha creato un falso account che si chiama Veg Washington, e praticamente da 2 anni a questa parte Veg Washington utilizzava questo account per monitorare, come dire, i rapporti, le relazioni su Twitter degli attivisti animalisti, in qualche modo controllandoli, entrandoci in contatto, estrapolandoli informazioni e via dicendo. Insomma, la notizia è interessante, soprattutto noi come Radio Postum ci sentiamo di dare una notizia a tutti quanti, un consiglio a tutti quanti, insomma, che è quello di non usare assolutamente i social network. Ci fa pensare quello che è successo dopo il 28 aprile con la liberazione dei cani da Green Hill, dove su Facebook per esempio sono girati foto, filmati di persone che esponevano i cani liberati come se fossero dei trofei, facendosi fotografare. Insomma, se vi volete far identificare andate in questura, c'è bisogno che lo fate su internet. E questa notizia che viene dall'America, appunto, di questo falso account Twitter creato da una lobby di settori, Americans for Medical Progress, per monitorare le attività, diciamo così, online di individui e di associazioni animaliste, è una cosa abbastanza inquietante, però al tempo stesso speriamo che sia anche uno spunto per tutte le persone per fare un po' più attenzione alla propria sicurezza e evitare, insomma, ecco, di frequentare troppo certi postacci come Facebook e via dicendo. Allora, intanto forse siamo riusciti veramente a metterci in contatto con Las Vegas. Ci senti? Sappiamo che stai facendo i salti mortali. Sì, sto correndo da una parte all'altra a cercare la linea. Nessuno per best. Non so più cosa fare. Ma è perché sopravvaluti la trasmissione, se no non ti ci impegnavi così tanto. Esatto. Va bene, allora la domanda non la ripeto per la quarta volta, perché sennò la gente pensa che sono scemo. Allora, lo ripeto, non so fino a dove si è sentito. Comunque Las Vegas è uno spazio che esiste da 7-8 anni circa, ed è uno spazio antispecista e anarchico. È a 30 km da Bologna, dove abbiamo un terreno, una casa con un terreno di 3 ettari e mezzo, con pascolo, boschetto, e dove convivono molte diverse specie di animali tutti insieme, tutti salvati comunque da un destino di morte, gabbie. Attualmente abbiamo cavalli, capre, galline, un sacco di cani e gatti. E in passato abbiamo avuto anche molti più animali, però poi dipende dai momenti. E ora viviamo fissi, siamo in sei persone, però spesso ci sono anche altri amici che soggiornano per un po' di tempo e anche insomma, persone che passano e vengono comunque ospitate sempre durante durante questo tempo. Inoltre, oltre all'antispecismo, portiamo anche altri discorsi, tra cui appunto l'autoproduzione, e cerchiamo appunto di autoprodurci il necessario per vivere, con orti e vari altri modi di autoproduzione, tra cui anche stiamo pensando appunto ai prossimi incontri di fare cose sull'energia alternativa, autocostruita con mulini o robe, insomma, per riuscire a non dipendere più dalla città e non dipendere più dall'industria. Infatti proponiamo spesso vari incontri dove partecipa diverse persone, Proponiamo vari laboratori in cui ci si può scambiare conoscenze reciproche e si può provare appunto la pratica dell'autogestione, perché sono sempre tutti gratuiti e ognuno porta sempre qualcosa, si cucina tutti insieme senza organizzatori, organizzanti, insomma. E più o meno quello che più o meno facciamo è questo. Voi non so se avevate qualche domanda più specifica o... Sì, certo, noi diciamo un aspetto che, di cui ci interessava approfondire, diciamo lo spazio che date, al contrario di altri posti come il vostro, alle iniziative, diciamo, anche più politiche, in particolare, insomma, quasi tutti gli anni fate un percorso sulle autoproduzioni, se ci vuoi parlare un pochino di questo, e poi, insomma, anche di altre iniziative che fate, perché... Nonostante si trovi fuori Bologna, insomma, io ci sono stato una volta sola sulle colline, però cioè, ci può venire chiunque e vengono fatte anche iniziative pubbliche dove sono invitate le persone per discutere di cose che non siano anche strettamente legate, diciamo, all'animalismo, all'antispecismo o agli animali di Las Vegas. Sì, certo, noi infatti sì, noi appunto parliamo di antispecismo, ma come proprio come discorso olistico, diciamo. In cui poi facciamo rientrare tutti i vari tipi di sfruttamento che possono esistere, perché non ci si può fermare solo agli animali, non ci sono solo loro, quindi anche se ovviamente avendoceli qui in casa gran parte del tempo sarà di loro, però quello che ci interessa portare avanti è proprio un discorso di non entrare nei meccanismi della città o del lavoro specifico che ti toglie tutte le possibilità di saperti autogestire la vita, di saper fare le cose, oppure accendi un interruttore e hai l'elettricità, invece no, l'elettricità volendo la puoi fare anche in piccolo per conto tuo, non hai bisogno di dipendere da nessun'altra multinazionale. È quello che appunto ci interessa portare avanti, oltre al discorso animalista, è soprattutto quello. Non saprei, sì, qua appunto perché vorremmo con un percorso lungo e anche invitando anche gente che magari ne sa di specifico più di noi, riuscire con vari percorsi, riuscire a essere autosufficienti su tutto per poter proprio dimostrare che comunque sia per il discorso animalista che gli animali possono vivere benissimo tutti insieme senza essere sfruttati, sia per poter dimostrare che non abbiamo bisogno di niente che ci offre tuttora la civiltà moderna. Stiamo benissimo facciamo le nostre cose, possiamo coltivare, possiamo autoprodurci tutto, quasi tutto per ora, adesso non tutto proprio, però. In più, sì, discorsi di più o meno tutti inerenti a tema ecologista sono stati fatti qua, anche incontri Liberazione della Terra, eccetera, però siamo anche comunque attivi a Bologna nei gruppi anarchici che girano su altri discorsi, per esempio contro il CIE o altre tematiche che però ovviamente vengono trattate più in città, contro il carcere, eccetera. Qua essendo lo spazio quello che offre è appunto un posto in cui puoi fare iniziative solo quando è caldo, se no sarebbero improponibili, e quindi ci siamo concentrati più su quello che può offrire questo spazio. Senti, io ti volevo chiedere una cosa, hai parlato di autoproduzione, di liberazione della terra, no? Che è un argomento molto, chiaramente molto importante, addirittura forse è il fondamento di tutto da un certo punto di vista, forse viene concettualmente ancora prima della liberazione animale, la liberazione della terra, non perché sia più importante, ma proprio perché concettualmente è la base di tutto, però è un tema che noi ci accorgiamo pure che spesso è un po' poco conosciuto, quasi passa un po' per, nel senso, la gente magari si mobilita molto e sente molto la vivisezione, l'allevamento, i mattatoi, la caccia, la pesca e via dicendo, però su tematiche come per esempio il disboscamento, la deforestazione, la cementificazione, noi trasmettiamo da una città che è Roma, che sta subendo un processo di cementificazione spaventosa con la distruzione di tutto l'habitat che è l'agro-romano, no? E noi ci accorgiamo che per esempio questo tema non è sentito dalle persone, anche da persone di cui ti aspetti che in fondo, o meglio, non è che non è sentito, non è immediatamente compreso. Voi nella vostra esperienza, visto che appunto sono diversi anni che insistete molto su questo aspetto, le reazioni delle persone, la partecipazione delle persone su queste tematiche in generale di tutto il movimento in Italia, secondo te che livello è? Insomma, secondo me non troppo alto, in effetti, cioè, ma se ne parla, però sempre non si riesce mai ad arrivare appunto a un punto di riuscire ad attivare qualcosa, cioè se ne si parla, si fanno magari degli incontri, però penso che l'esperienza più grande in Italia sia ora la Valsusa, in realtà, su questo tipo di lotta, se lo vogliamo mettere nel pratico. Invece, perché molto spesso c'è appunto la scelta tra il vivere in campagna o il vivere in città e lottare, no? O fare tutto l'attivismo. Invece stiamo cercando di riuscire a fare le due cose. Ovviamente non puoi essere presente sempre in città, però ovviamente le lotte vanno portate avanti lì, perché in campagna fuori non c'è molta possibilità. E quindi, però sì, non c'è un gran interesse, sinceramente, da quello che ho visto. Le persone sono veramente poche, che sì, sicuramente gli interessa come discorso, però per portarlo avanti in un altro, in fase più concreta, è più difficile forse in Italia, anche e soprattutto che appunto ormai siamo tutti circondati dal cemento, cioè un po' più difficile forse poi appunto bloccare alcune cose che devono ancora nascere, però per il resto molta gente poi gli sta anche bene la città, non è che ci sta male, diciamo. Mi senti? Allora, ciao, ti volevo chiedere invece quali sono le prossime progetti, iniziative che state facendo? Allora, adesso penso che per l'estate avevamo forse in programma di fare altri incontri, perché pensavamo più al weekend, però qua sai, viene sempre, cioè se ne fai troppo spesso poi non viene nessuno, perché fa fatica la gente a spostarsi anche se sono 30 chilometri. E quindi è un po' in progetto, comunque facciamo sempre ogni tanto qualche weekend sull'autoproduzione, e poi come ogni anno a settembre ci sarà uno o tre giorni un po' più grande, che stiamo ancora organizzando, però questo sarà un attimo più pubblica. Di altre cose per ora non ce n'è, comunque il posto è sempre aperto, se qualcuno ha interesse di passare o proporre qualcosa o anche solo visitare lo spazio, comunque è sempre aperto, c'è sempre qualcuno per forza. I tre giorni di settembre che stai anticipando, su cosa verterebbero? Dici che è un appuntamento fisso di ogni anno? L'anno scorso abbiamo fatto gli incontri tre giorni, una primavera e uno a settembre, però di solito ne facciamo più, ogni anno è sempre stato fatto a settembre, è un altro giorno appunto dove si stanno qui in tenda, si sta tutti insieme, ognuno porta qualcosa da mangiare, si forma il gruppo cucina autogestito, e poi vengono proposti laboratori, come non so, gli ultimi miei, non so, come farsi la birra partendo proprio dal cereale, oppure come farsi un forno in terra e paglia. E varie tipi. Questa di settembre speriamo di riuscire ad avere abbastanza materiale per poterla, ci sarebbe piaciuto impostarla sull'energia, cioè o con bici autocostruite per immagazzinare energia, o piccoli mulini fatti come una ruota di bicicletta per poter riuscire a essere autosufficienti, non dipendere appunto da... Scusa se mi intrumento, ma non avete già fatto con questo tema un incontro già qualche anno fa? Sì, un mulino, però era solo teorico. Ah, okay. È stata trattata solo l'aspetto teorico, ed era un progetto un po' più grande. Questa volta invece vorremmo portare tanti piccoli esempi, per non dover fare una costruzione grande o impegnativa, ma proprio cose piccole che puoi avere anche in casa ed autoprodurti, non so, per esempio fai con una ruota da bicicletta un piccolo mulino e costruisci e riesci a tenere accesa, non so, la radio o la luce per tutto il giorno. Piccole cose un po' anche, no, in versione insomma più facile. Va bene. E affrontarla anche proprio, riuscire anche a fare diverse chiacchierate proprio sul discorso di cos'è l'energia e come tutto quello che stanno portando, discorso appunto l'energia è una dei posti in cui inquina di più, che crea più danni ecologici tra le dighe, e appunto parla anche molto spazio, molto alle chiacchierate questa volta, oltre al pratico. Senti una cosa, ci vuoi dare qualche contatto? Voi, per esempio, non so, avete un sito web? Forse non ce l'avete o ce l'avete? Sì, però in realtà col fatto che qui internet non esiste, okay. Potresti tranquillamente, penso, lasciare un recapito telefonico oppure l'indirizzo, come ho il mio recapito telefonico, oppure l'indirizzo direttamente. Sì, sì, però... sì, prego, vai, lascia tutti i contatti in maniera che chi vuole, insomma, avvicinarsi anche per così, anche ad esempio a me quello che mi affascina molto di Las Vegas è proprio un altro modo di concepire la vita, che alla fine esce un pochino da quello che è il meccanismo del produci consuma crepa, nel quale magari siamo ingabbiati nelle città dove comunque abbiamo un altro tipo di rapporto. Io mi sveglio la mattina e vedo un palazzo, vedo il cemento, vedo l'asfalto, insomma Las Vegas, ti svegli la mattina e vedi le colline bolognesi, la foresta, gli animali, un altro modo di vivere. Sì, sì, vedi gli animali anche in casa la mattina, non c'è modo di cacciarli fuori. E, sì, e poi anche perché no, niente, ho perso niente. Quello che volevo dire, sto pensando all'altro. Va bene, non ti preoccupare, insomma, già sappiamo che hai fatto i salti mortali per riuscire a fare questa telefonata. D'accordo. Senti, allora, ma lì fa caldo? Così. Sì, oggi è fatto. Perché qui si muore, io sto sudando una cifra qua dentro, poi non c'è niente, cioè, insomma, non passa un filo d'aria. No, no, qua è caldo lo stesso, però ti dico che quando si va, tipo io che sono andato in città, non riuscivo neanche a pensare, quindi immagino, non ci riesco proprio adesso, quando scendo spengo il cervello perché è impossibile. Cioè, qua sì, è caldo, perché è caldo, però meno male qualche filo d'aria c'è. Va bene, allora dai, lasciamo l'indirizzo di Las Vegas per chi vuole venirvi a trovare. D'accordo, allora Las Vegas è a Monte Pastore, e si trova, basta cercare su internet, via Lombardia numero 2. Okay. E uno può venire perché tanto c'è sempre qualcuno, c'è sempre... ci arrivano anche dei mezzi, diciamo, treni, autobus? Sì, c'è l'autobus, il 686, che si prende in autostazione a Bologna, numero 686, e arriva, bisogna scendere appunto a Monte Pastore, e da lì scendere a piedi, eccetera. Io posso lasciare anche un recapito telefonico, che se uno arriva appunto vuole... magari si può anche andarlo a prendere la formata, che è 328 03 22 178. Ok, va bene. Se non hai nient'altro da aggiungere, ci possiamo salutare, ti ringraziamo. D'accordo, va bene. Per qualsiasi, insomma, aggiornamento, iniziative, cose che accadono, naturalmente potete tranquillamente chiamare la radio oppure anche noi, come vi pare. Perfetto, benissimo. Va bene. D'accordo. Un abbraccio. Va bene, un abbraccio, ciao. Ciao. Full flesh means they're out of luck. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Rescue thanks, no tissue for the life served on our plate. Slice it up and again, let the funeral begin. From the cage to the plate, there's blood on your hands. Wake. Uphold. Tastes so good, can't let it go. allora, come sempre, siamo giunti al momento degli appuntamenti. Lanciamo un po' gli appuntamenti prossimi, diciamo, della settimana o del mese che segue. Cerchiamo di andare un po' in ordine cronologico. Allora, diciamo che il 22 giugno ci sarà la presentazione di un'investigazione fatta dai Nemici Animale, fabbriche di carne sugli allevamenti intensivi di maiali. Sarà venerdì 22 giugno alle ore 18 a Piazza San Carlo a Milano. Ci sarà questa presentazione dell'investigazione di Nemici Animale, appunto, in cui verrà proiettata al centro di Milano il video sugli allevamenti intensivi di carne, un po' per promuovere il veganismo e una considerazione degli animali come esseri senzienti, insomma, a coloro che ancora, insomma, non hanno questo tipo di sensibilità o non sono mai venuti a contatto con l'argomento. Poi il 23 giugno, importante appuntamento a Grosseto, ci sarà il benefit per i Poasi. Poasi, ricordiamo che abbiamo sentito qualche settimana fa proprio qui in radio, a Radio Possum, e ci sarà il benefit il 23 giugno a Grosseto presso l'associazione Didee Onlus, e il 1 luglio sempre benefit per i Poasi a Castellanza, in provincia di Varese, a Libera Animal Fest. Poi il 6, il 7, 8 luglio, un appuntamento classico, siamo giunti alla settima edizione di Vega Anch'io, quest'anno è a Vimercate di Milano, il 6, il 7, 8 luglio, in Via degli Atleti 1, e come ogni anno sono 3 giorni di incontri, divertimento, buon cibo, biologico e sostenibile, naturalmente vegano, e lo scopo è quello di diffondere una nuova cultura del rispetto e dei diritti. Info e contatti possono essere trovati su il sito, che è veganchio.org, oppure se volete informazioni potete scrivere all'indirizzo info@veganchio.org. E poi un altro appuntamento è quello a La Dispoli, che sarà 14 e 15, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio a La Dispoli, un 3 giorni di workshop di cucina vegan organizzato dall'associazione Libera Polis, in cui verranno proposti un workshop, ogni giorno verranno ideati dei piatti di cucina vegan che solitamente, insomma, si cercherà di sfatare il mito secondo cui la cucina vegan è la classica cucina povera e triste, e invece faranno piatti abbastanza ricamati, come crocchette di quinoa e funghi, varie torte al cioccolato. Poi prima qua abbiamo parlato anche di torte, forse Mocio dopo vi svelerà una chicca sulle torte allo yogurt da lui ideate. Sì. E poi il 30 giugno, sì, forse ne vuoi parlare una tu? Una cosa al volo, scusate. No, la cosa del 14-15 luglio organizzata da Vegan Riot, che qua a Roma sono dei ragazzi che cuochi di professione che da un sacco di tempo diffondono, no, la cucina vegan. Sì, compagni di vecchia data, insomma, più che ragazzi, cioè, hanno un'antologia dei militanza, parecchi punti militanza alle spalle, insomma. Sì, dopo questo momento godereccio ricordiamo i momenti di mobilitazione, la manifestazione del 30 giugno a Montichiari, l'appuntamento alle ore 15, il luogo ancora da confermare. Per aggiornamenti visitate il sito www.fermaregrenil.net. Manifestazione nazionale organizzata dal coordinamento Fermare Green Hill, che forse prevederà anche un successivo accampamento a Montichiari. Sì, e poi, insomma, ci sembra doveroso fare una parentesi su quella che è stata definita l'operazione Ardire, insomma un'altra squallida operazione poliziesca di repressione che ha portato in carcere vari compagni. Ci interessava leggere un manifesto che hanno fatto i compagni e le compagne del gruppo ecologista radicale Il Silvestre, ve lo leggo. Indietreggiare o canaglie, l'anarchismo non si indugia, con l'attitudine vostra vergognosa e neppure con la penna degli scribi, ma si difende contro tutto e contro tutti, anche quando la bufera travolge tutta la laboriosa opera innalzata, granello su granello. Questa naturalmente è una citazione di Saverino Di Giovanni, e poi ce n'è anche un'altra. Ardire per la nostra dignità rivoluzionaria, ardire per conservare la tradizione della nostra storia, ardire per valorizzare la nostra volontà realizzatrice. Libertà per Stefano, Elisa, Alessandro, Sergio, Katia, Giuseppe, Paolo e Giulia. Libertà per Marco e Gabriele. Quando libertà per Marco e Gabriele, naturalmente si riferiscono a Marco Kamenich e a Gabriele Pombo da Silva, che sono due compagni anarchici che insomma sono in carcere da molti anni, cioè si parla di decenni per varie ragioni, e sono stati tirati in mezzo in questa operazione giudiziale che, come al solito, è una montagna di fumo orchestrata dalla polizia, con il pretesto di aver aderito moralmente alla cospirazione delle cellule di fuoco, che è un gruppo del tutto informale, non organizzato, ma non possiamo neanche definirlo un gruppo, ma una sigla con la quale sono stati rivendicati degli attacchi prevalentemente in rete oppure con dei comunicati arrivati dai giornali. Quindi non sappiamo bene come si possa parlare di associazione sovversiva, associazione a delinquere in queste condizioni. Naturalmente vi lasciamo i contatti degli arrestati e delle arrestate, tra cui c'è anche un compagno redattore di informazione, un sito importante nella quale anche noi prendiamo spunto e prendiamo notizie. I contatti degli arrestati sono Stefano Gabriele Fosco e Elisa Di Bernardo, si trovano entrambe a via Don Bosco 47 56127 a Pisa. Alessandro Settepani, Paola Francesca Iozzi, entrambe nella casa circondariale Capanne in via Pievaiola 252 06132 Perugia. Sergio Maria Stefani, nella casa circondariale Reggi Raceri, qui a Roma, via della Lungara 29, 00165 Roma. Katia Di Stefano, a Rebibbia Femminile, via Bartolo Longo, 00156 Roma. Giuseppe Loturco, nel carcere casa circondariale di Marassi, piazzale Marassi 2, 16139 a Genova. Giulia Marziale, casa circondariale di Teramo, contrada Castrogno 64100 Teramo. Naturalmente i contatti precisi li trovate in rete, per esempio su Informazione. E volevamo poi, per chiudere, proprio ricordare situazioni un po' difficili di associazioni e di individui che si occupano comunque di animali. Ricordiamo ancora una volta la situazione dei rifugi animali felici a Luino, in provincia di Varese, che diverse settimane fa ha avuto un incendio probabilmente doloso in cui sono morti alcuni animali e è stata distrutta parte della struttura. Hanno bisogno di aiuto, anche manuale, anche pratico, e anche di solidarietà. Qualsiasi informazione sul loro sito www.rifugioanimalifelici.it. E poi citiamo, per chiudere, la situazione di Anima Randaggia, che è un'associazione che opera in Calabria per cani e gatti randaggi. Hanno molti debiti e soprattutto hanno molti cani da far adottare, soprattutto cuccioli. È arrivato l'estate, quindi vi potete immaginare la situazione. Qualsiasi informazione la trovate sul sito internet animarandaggia.org. E per adesso, per stasera, è tutto. Mocio non ci va a dare la sua ricetta della torta vegan, ma però sì. Daccela, sì, dai. Dovremmo introdurre un angolo veramente goderecci, 5 minuti finali goderecci, sì, gastronomici. Abbiamo iniziato la trasmissione dicendo: questa sera non facciamo i deficienti. Ed ecco come è andata a finire. Io credo che la colpa sia del maggiordomo, che è venuto da Marsiglia per portare il caos con la fame. Allora, per sfamarti, puoi fare questa. Vabbè, ma la voglio dare veramente? Sì, no, siamo di per scherzo. La devi dare. Allora, la torta di yogurt congelata. Si fa così: si prendono dei biscotti di quelli croccanti duri, tipo Digestive, si sbriciolano tutti quanti. Dopodiché si scioglie della margarina e si mischia con i biscotti sbriciolati. E con questa cosa si fa la base per la torta. Si mette nella teglia, insomma, diciamo 6 mm. Senti che misurazioni. Ma quanta margarina, scusa? Un tot. Margarina autoprodotta, perché abbiamo fatto la puntata la settimana scorsa sull'olio di palma, quindi ecco. E vabbè, si può fare con l'olio d'oliva, basta metterlo nel frullatore. Va bene, a questo punto bisogna prendere 3 vasetti di yogurt ai frutti di bosco e 12 fragole. Si mettono tutti nel frullatore e si fanno frullare finché non ne viene una pasta omogenea. Si aggiunge lo zucchero a piacere e un pochino di amido di mais per farlo, diciamo, restringere. Si versa tutto il contenuto sulla base che avevamo preparato prima e si mette al congelatore. Dopodiché, quando è ghiacciata, si tira fuori, si lascia riscaldare per 10 minuti perché sennò è un pezzo di ghiaccio, e a quel punto si mangia come semifreddo, volendoci si può mettere anche la marmellata sopra. E siamo rimasti d'accordo che lunedì prossimo Mocio ce la porta qua Radio Onda Rossa. E certo, questo è comodi vostri. L'ha promesso, qui. Questo è comodi vostri. Va bene. E allora, niente. Credo che adesso sia veramente tutto. A meno che non avete delle ricette jolly pure voi. No, ricordiamo i contatti. Allora, per consultare il blog, www.radiopossum.noblogs.org, e per scriverci commenti, suggerimenti, lagazzaladra@inventati.org. Salutiamo tutti coloro che sono privati della libertà personale. Sì, siano essi animali, umani o non umani. E ci sentiamo lunedì prossimo dalle 22 alle 23. Ciao. Ciao.